a settembre, era un musicista molto importante per questo paese, proprio nel momento in cui questo paese, il Burkina Faso, sta attraversando una transizione difficile. Lui aveva iniziato a suonare piuttosto tardi, scoperto da Radio France International nel 1989, e allora ce lo ascoltiamo dal suo album Deli, questo brano che si chiama Ma Belle. Attention à la vie, ma belle. Attention à la vie, la vie n'est pas aussi facile. Ah. Attention à la vie, ma belle. Attention à la vie n'est pas aussi facile. Oh. Tu sais pourquoi, ma belle? Tu es aimé par le jeune du quartier parce que tu es sa beau-frère. Ah, tu sais pourquoi, ma belle? Tu es aimé partout, partout parce que tu es sa beau-frère. Oh, tu voulais bien profiter de ta jeunesse pour bien vivre. Entre toi et la vie qui a vaincu. Belle, oh ma belle, belle, oh ma belle, belle, oh ma belle. Attention à la vie n'est pas aussi facile. Oh, tu sais pourquoi, ma belle, tu es aimée par le jeune du quartier, parce que tu es sa beau-frère. Ah, tu voulais bien profiter de ta jeunesse pour bien vivre entre toi et la vie. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à rouler. Victor Demé, ma belle, Victor Demé era nato nel 62 e discendeva da una generazione di griot o mandengue. Ed era un sarto. Vittorio Demé aveva cominciato a cantare nelle orchestre africane, soprattutto in Costa d'Avorio, continuando a fare appunto il suo mestiere di sarto, tant'è che nella testa di copertina di questo album Deli si vede lui davanti alla Singer, alla macchina appunto per cucire. E aveva cominciato appunto il primo album all'età di 46 anni, prodotto appunto, scoperto da Radio France International, prodotto dalla Chapa Blues, e quindi insomma in età piuttosto tarda. È un album che aveva queste sonorità folk blues mandengue con questa eleganza afro-cubana, e da lì insomma si è fatto conoscere appunto, e poi è scomparso a settembre. E allora da Victor Demé andiamo un altro grande musicista, che lui viene dalla Guinea, si chiama Mamadou Barry. decisamente un'altra generazione, perché Mamadou Barry è del 1947 e anche lui insomma doveva fare altro, doveva diventare un insegnante, invece la sua passione per la musica l'ha portato altrove, anche se poi ha continuato a insegnare, ma insegnava musica, è stato maestro di tamburi del balletto di Conakry. E poi insomma multistrumentista, sassofonista, flautista, ha registrato questo album che è un vero e proprio capolavoro, Nijo, insieme a molti altri musicisti della Guinea, in mescolando generazioni diverse. E allora Mamadou Barry, ci ascoltiamo Sodia. Thank you. Mamadou Barry con questo suo Soya. E allora sono le 16.48 e voi siete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Il contatto telefonico è 06 49 17 50 Radio Africa. E allora andiamo a incontrare un altro gruppo che si chiamano gli Akale Vobe, ed è la storia di un incontro quasi improbabile, perché riunisce a 40 anni di distanza dei giovani parigini e il suono della Swinging Addis, l'Addis Abeba, degli anni 70. Nell'ottobre del 2008 questi cinque musicisti si riuniscono intorno a un progetto apparentemente, insomma, bizzarro, quello di riprendere il repertorio di quel periodo della Swinging Addis, il periodo in cui Addis Abeba era piena di locali dove si suonava prima del colpo di Stato, del derg, prima della guerra, e naturalmente reinterpretarli in maniera, riarrangiarli in maniera moderna, facendoli un po' uscire dal cliché del cosiddetto etio jazz. Per quanto riguarda la musica africana, molto spesso facilmente si appioppiano etichette che, insomma, non hanno molto, molto senso. E allora questi coraggiosi musicisti parigini hanno fondato gli Akale Vobe, e il brano che ci ascoltiamo è Ambessa, con la collaborazione di Manu Dibango. Thank you. a Calais, a Calais VB, con il loro brano Ambessa insieme a Mano di Bango. E allora rimaniamo ancora in atmosfere di musica etiope. Abbiamo parlato appunto con gli Akalevu di questo incontro fra i musicisti parigini e tutto lo swing di Addis Abeba degli anni 70. C'è anche un ulteriore incontro della musica etiope con gli ambienti del punk olandese, un gruppo musicale che si chiamano gli X, che si sono incontrati, e c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine fra questo gruppo punk Getachew Mekuria, che è un sassofonista anche insomma molto avanti negli anni, un settantenne molto arzillo. Si sono incontrati, hanno fatto un disco insieme e poi gli ex lo hanno invitato per il concerto in occasione del loro compleanno. E allora ce li ascoltiamo entrambi in questo brano, che è un classico della musica etiope, Musica We Silt. incontro con il sax di Getchawe Mekuria e le chitarre abrasive degli ex. Insomma, questo era uno splendido incrocio di sonorità che apparentemente sono diverse, quasi inconciliabili, e che invece, insomma, creano un mélange veramente molto molto interessante. Allora, sempre all'ascolto degli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, e andiamo a incontrare un altro mostro sacro della musica africana. Lui è Ray Lema. Ray Lema è un musicista, un pianista che si è confrontato veramente con tantissimi generi, addirittura con la musica classica, e questo aspetto fa parte della sua biografia, per cui lui è nato nel Congo e a 11 anni entra in seminario dai padri bianchi, e qui nel seminario si approccia ai canti gregoriani, conosce Mozart, Chopin, e poi piano piano a 14 anni, quando